sono pronto a sapere parlare, proprio adesso che voglio soltanto morire. Su quelle tue labbra c'è ancora posto per me. E come d'incanto dimentico tutto, anche un bacio per tre. Ora ti accorgi di me, sulla bocca e negli occhi, ed io mi accorgo di te, nelle tue mani ci senti, avrò cura di te. Ora che io so sentirti, avrai cura di me, perché ho imparato ad odiarti, perché ho imparato ad odiarti. Non ti accorgevi di me. E voi vi siete accorti che siete naturalmente in compagnia di Jerry all'interno di Semplicemente Insieme? Sì? Bene, bene. A proposito di Adriano Celentano, finalmente è stato raggiunto un accordo tra la RAI e il molleggiato. Dopo le polemiche dei giorni scorsi, infatti, sarà presente al festival, massima libertà al cantante nei suoi monologhi e nessuna interruzione pubblicitaria. Confermato il cachet, che praticamente, sentite un po', ammonterebbe a 300.000 euro a puntata per un massimo di 750.000 euro. I monologhi di Celentano dovranno rispettare le leggi del codice etico della RAI. Prima performance senza spot, in quanto considerata evento eccezionale come Roberto Benigni lo scorso anno, e possibili interruzioni negli interventi delle serate successive solo nel caso in cui superano gli intervalli tra un break e l'altro. Beh, 300.000 euro, direi che sono un po' tantini questi qua, per qualche apparizione devo dire che sono un po' esagerati. Voi che ne pensate? Pensate come me questa cosa, che siano in effetti un po' troppi per un'apparizione? Boh, chissà cosa succederà, vedremo, andiamo avanti con la bella musica, sempre qui in diretta su CRM Happy Radio. Thank you.

see, the less I know, the more I like to let it go. Hey, oh, whoa, whoa. Deep beneath the cover of another perfect wonder, where it's so white as snow, finally divided by a world so undecided, and there's nowhere to go. In between the cover of another perfect wonder, and it's so white as snow, running through the field where all my tracks will be concealed, and there's no. For a friend, all the channels that have broken down. Now you bring it up, I'm gonna ring it up just to hear you sing it out. Step from the road to the sea to the sky, and I do believe what we rely on. When I lay it on, come get to play it on, all my life to sacrifice. Hey, oh, listen what I say. Oh, I got your hey, oh, listen what. I know the more I like to let it go. Hey, oh, whoa, whoa. Deep beneath the cover of another perfect wonder, where it's so white as snow, blindly divided by a world so undecided, and there's no. Qui in diretta su CRM Happy Radio. A proposito di questo gruppo, presentano il video del nuovo brano Look Around, un brano energico e rock, terzo estratto dal loro ultimo album di inediti I'm With You. Ritornano sulla scena musicale con una ballad energica e coinvolgente, accompagnata da un video altrettanto dinamico. Il brano mostra in azione anche il nuovo chitarrista della band californiana. Il videoclip è stato girato in 4 diverse stanze e vede i componenti della band scatenarsi a più non posso. Il singolo però sarà disponibile nei negozi a partire dal 5 marzo, quindi ancora dobbiamo aspettare un pochino. mentre per vedere il Red Hot Chili Peppers dal vivo bisognerà aspettare il tour europeo che partirà la prossima estate, quindi ancora un altro po' di tempo e poi ritorneremo a vedere e a sentire questo magnifico gruppo californiano. Mi ricordo i numeri per le vostre richieste, che è sempre il 335 5637 251, lo 0921 92 32 92. Potete seguirmi in diretta streaming sul sito www.crmpiradio.it. Sing a song, nothing but blue.

il sentimento mio. Sento forte, forte, forte, ti vorrei, sei. Sì, bello impossibile. Ogni tanto ci vuole fare un passo indietro nel tempo per riascoltare dei grandi vecchi successi. A proposito di belli, bellezza, la bellezza a quanto pare non ha prezzo, perché sembrano pensarla così gli oltre 1000 italiani che ogni mese chiedono un prestito o un finanziamento per sottoporsi a un ritocchino di medicina estetica o per un vero e proprio intervento. E a sorpresa, oltre la metà di loro, sapete chi sono? Beh, i maschietti, sì sì, proprio loro. Insomma, quando c'è di mezzo il proprio aspetto esteriore, non c'è crisi economica che tenga. La segnalazione infatti arriva da prestiti.it, un broker online per il confronto prestiti che ha dedicato un'analisi a questo particolare tipo di richieste. Il 56% infatti di chi ricorre a un prestito per pagarsi un trattamento è di sesso maschile, l'età media è di circa 40 anni, il 53% invece sono dipendenti privati, poi abbiamo i liberi professionisti, poi a seguire ancora dipendenti pubblici, e c'è una considerevole 15% che è rappresentato da tre categorie colpite dalla crisi: pensionati, disoccupati e casalinghe. Avete capito? Sempre la colpa alle donne, le donne che vogliono sempre mettersi in mostra, che il ritocchino di qua e di là, invece quelli ad essere un po' più, a curarsi di più, mi sa che sono proprio i maschietti. Sì sì sì, tutti pronti con le cremine, i ritocchini, la palestra e insomma l'estetista, però senza esagerare, maschietti però, eh? Cioè l'uomo deve essere uomo, però non è che dovete diventare troppo, eh? Mi raccomando, sì? Ok, e noi continuiamo ancora con la bella musica. All my people on the floor, put money all night. Don't want some more, some more. We battle to the on another line. We never stop, we roll. We never stop, we roll. We roll, we roll, we roll, we roll, we roll, roll, roll, roll. Yes, Sasha the best. Come on.

eccomi ancora qua, ancora per qualche mezz'oretta, sì, circa. Volevo ricordarvi intanto che sono aperte ancora le selezioni per il primo corso di formazione radiofonica, naturalmente organizzato da CRM Happy Radio con il patrocinio del comune di Cefalù. Mandate i vostri curriculum a formazione@crmhappyradio.it e, come dico sempre, in bocca al lupo a tutti quanti. Piccolo spazio pubblicità. E siamo andati un po' indietro nel tempo, sempre ad ascoltare il grandissimo Vasco Rossi con Bollicine. A proposito di Bollicine, sapete cosa stavo leggendo, no? Una notizia che per festeggiare insieme ai suoi lettori la centesima copertina, il Rolling Stone Italia ha stilato una classifica dei 100 migliori dischi della musica italiana. Un progetto che ha rassunto in un'unica lista tutte le canzoni del pop nostrano dal 1960 ad oggi. Primo classificato, appunto, la bellissima canzone che abbiamo appena ascoltato, Bollicine di Vasco Rossi. Poi naturalmente è stata seguita dalla voce del padrone di Franco Battiato e da Una donna per amico di Lucio Battisti. Ai selezionatori, tra cui Carlo Verdone, Marco Travaglio, Valentino Rossi e Matteo Renzi, solo per citarne alcuni, è stato chiesto di osservare due semplici regole: includere esclusivamente album successivi alla nascita del rock and roll, considerando un solo album per artista, e votare quindi i propri dischi, 10 dischi preferiti di sempre. Pensare di riassumere 50 anni di musica italiana in una lista di 100 dischi già era una discreta follia, dice Michele Lupi, il direttore di Rolling Stone. La cosa di cui però siamo certi è che questo dà un'idea molto vicina alla realtà della musica che è circolata quindi nelle camerette, nelle piazze, nelle radio, negli stadi e nei centri sociali del nostro paese. Bene, bene, bene. Siamo contenti che Bollicine quindi sia nel podio, sul podio. Bene, una bella canzone, naturalmente sempre belle le canzoni di Vasco Rossi. E noi andiamo avanti, sempre con la bella musica. So the day has finally come, with my past I've drawn the sun, and I'm glad I'm moving on. Yeah, I'm lost in unreturning time, let the winter chill my prime, but I'm that's true. Show myself in flame and steel, 'cause the moment

quasi a dovere, intorno alla pancia come una cinghia, per non dimenticare il tempo che fugge verso i tuoi giorni che sono niente, ora che anch'io non ho direzione e vago nel buio, non ho destinazione. Negramaro, Londra brucia, questo è l'ultimo singolo dei Negramaro che naturalmente è contenuto all'interno dell'ultimo lavoro discografico della band intitolato Casa 69. E questo Londra brucia sicuramente non tradisce gli appassionati già dal primo ascolto. Le sonorità sono le stesse di sempre, energiche, emozionanti, seducenti nello stile. In particolare il brano si avvolge tra note da ballata e offre dell'evoluzione con picchi di pura suggestione. Caratteristica del gruppo, infatti, è proprio quella di avere la capacità di far immergere l'ascoltatore nelle atmosfere che vogliono raccontare con i loro pezzi. Come in questo Londra brucia, infatti, che lascia trasparire il clima rarefatto della città inglese che si offre al racconto musicale dei Negramaro in maniera mirabile. E quindi questo è un brano, devo dire, che al primo ascolto a me piace molto, spero sia piaciuto anche a voi. Comunque Negramaro, un bel complesso che veramente ci lascia sempre a bocca aperta con i loro brani, veramente molto molto belli, molto suggestivi. When they push, when they pull, tell me can you hold on? When they say you should change, can you lift your head high and stay strong?